effetto, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamate informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi che è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa. Soggetto predicato, complementi senza troppi complimenti, con un pugno sopra i denti, silenzi dei perdenti, muti e sorridenti, immunodeficienti agli attacchi dei potenti che spingono la massa, colpi di gran cassa nel basso del fosso, sull'orlo del baratro sigilla, nel feretro del dialogo con chiodi di garofano, gridare presse in un clamore afono, il megafono catodico raccoglie ed amplifica, chiacchiere diafane come ali di tafani che ronzano nell'afa del deserto culturale, i mezzi ruderi di un'epoca fatta di ideali mai raggiunti. Vuoi per mancanza di costanza, vuoi di fortuna, vuoi di coraggio, vuoi cambiare cambia, questo è il momento di passare in vantaggio. Questo è il messaggio che ti sto indirizzando, il crimine sonoro che sto perpetrando, violando quel tacito codice incivile del silenzio da cui mi differenzio in quanto presenza e sentenzio. Ritmica la rima ossessiva e percussiva, offensiva e persuasiva, dirada la nebbia luminosa come il sole, perché la lingua batte se la mente vuole. Parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? Vai DJ Style, dai potere al rumore. Allora, un grande ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Wombat. Siamo qui in questo nuovo, diciamo sì, nuovo spazio informativo, nel quale, appunto, come è già stato introdotto, vorremmo cominciare a discutere, introdurre, a volte approfondire quello che è il trattamento che i giornali, la stampa, i media mainstream riservano alle vicende che riguardano quella che nel tempo abbiamo più volte chiamato la vertenza piana, che tiene insieme alcune opposizioni, vertenze popolari contro la costruzione dell'inceneritore previsto per Case Passerini, ancora previsto, e contro l'ampliamento, costruzione del nuovo aeroporto di Peretola. Cominciando questo nuovo anno, non possiamo esimerci da fare una sorta di riassunto delle puntate precedenti, ripartendo da quella che è stata la fine dell'anno scorso, la fine del 2017, ora finito tra panettoni, botti e quant'altro. Fissiamo così un punto d'inizio per parlare di questa chiusura d'anno sicuramente significativa per tante ragioni. Fissiamolo al 2 di dicembre. Il 2 di dicembre, giorno della manifestazione, della mobilitazione popolare che le realtà, della vertenza, di questa vertenza piana, hanno convocato il 2 dicembre, una manifestazione, mobilitazione, partita già con il treno da Sesto Fiorentino, poi arrivata alla stazione Santa Maria Novella, da lì proseguita con un serpentone che si è snodato nel centro fiorentino per concludere in Piazza della Signoria, una manifestazione tutto sommato partecipata rispetto a quelle che erano le aspettative degli organizzatori, che sapevano trovarsi in un momento in cui la partecipazione non è ai suoi massimi, proprio perché l'iniziativa degli avversari non era perlomeno così decisa. Teniamo sempre conto, appunto, che si sta parlando dell'opposizione a due opere che sono ancora incartate, incastrate nell'iter autorizzativo. Quindi, insomma, rispetto alle aspettative degli organizzatori, la manifestazione del 2 dicembre è stata ben partecipata e direi che, così come dato da sottolineare, c'è stata una buona attivazione precedente perché è stato un corteo in qualche modo ricco. Da un punto di vista di, appunto, di creatività popolare, perché erano stati fatti tre pacchi a simboleggiare le tre grandi opere che aleggiano come spade di Damocle sull'area metropolitana fiorentina, la TAV, qui con il suo passante sotterraneo, la stazione Foster ancora prevista, appunto l'inceneritore e l'aeroporto. Quindi questi tre pacchi la gente simbolicamente dalle periferie o dai comuni considerati minori, soprattutto quelli dell'area nord-ovest di espansione che seguono il corso dell'Arno, quindi Sesto, Campi e Calenzano, li riportavano al centro di Firenze, nella Piazza della Signoria, sotto il Palazzo Vecchio, dove sicuramente troviamo il renzianissimo Nardella che indubbiamente, insomma, in qualche modo simboleggia la volontà di proseguire su tutti questi progetti. Quindi la manifestazione è stata una manifestazione, ritengo e riteniamo, è stata valutata anche positivamente all'interno delle forze che l'hanno organizzata. E niente, è così interessante in questo spazio che vorremmo rendere periodico di discussione e di approfondimento rispetto appunto al ruolo della stampa o più in generale del sistema dell'informazione, rileviamo come dato il fatto che la manifestazione del 2 dicembre è stata quasi del tutto ignorata, ben poco è andato sui giornali quotidiani che hanno una cronaca locale, qualcosina, un pochino di più in alcune testate o giornali della piana a diffusione locale. E qualcosa anche sui TG locali, però insomma non ha avuto una grande rilevanza. Questo ovviamente era quasi del tutto scontato. Succede un po' ovunque nel nostro bel paese che le iniziative di lotta, gli spunti e più in generale l'opposizione e l'alterità rispetto appunto al sistema dominante venga in qualche modo ignorata, e quindi non ci ha stupito che non ci sia stato particolare interesse nei confronti della mobilitazione. Nello stesso tempo abbiamo un po' così, direi, valutato, possiamo dire che un'attenzione nei confronti della manifestazione invece c'è stata, e c'è stata guardando appunto i giornali che abbiamo preso in considerazione, principalmente Repubblica e Nazione. Sia perché sono quelli più letti, La Nazione indubbiamente essendo anche il giornale dei bar, no? È un giornale che viene più che letto sfogliato, guardato, e un giornale che sa di essere più che letto sfogliato e guardato, visto anche l'uso fortissimo che fanno delle immagini, i titoli shock, il sensazionalismo che lo contraddistingue, quindi insomma un giornale significativo in questo senso, che significativo nel senso del suo ruolo nel costruire il discorso pubblico. Quindi, appunto, come dicevo, sono stati sicuramente attenti a quello che è successo il 2 di dicembre, perché pochi giorni dopo della manifestazione sono cominciate una serie di interventi, un forte pressing mediatico che proveremo a riportare, tenendo conto che appunto questa in qualche modo è una prima pillola introduttiva che dovrà tenere conto di tutto quello che è successo nel mese di dicembre di cui sto parlando e che invece si riscuota al nuovo anno. Quindi sono molti temi che siamo costretti a in qualche modo snocciolare, rischiando di fare forse confusione, ma insomma cercheremo di essere il più possibile chiari. Quindi hanno cominciato questo pressing mediatico molto forte. Subito sulla questione dell'inceneritore, perché tanto per così, appunto, guardando un po' i giornali, subito l'8 di dicembre la Repubblica, ma anche la Nazione, ma prendiamo la Repubblica, esce con l'articolo dal titolo Penali, quanto costa dire no all'inceneritore? Ecco, questo è un articolo sicuramente significativo che mette immediatamente in evidenza subito la paranoia che vuole essere suscitata e quindi trasmettere immediatamente dal titolo l'idea che non si possa tornare indietro su quest'opera, e più in generale un discorso che da sempre viene fatto da chi propone le grandi opere su tutte le grandi opere. Ovviamente, diciamo, dal basso e da parte dei movimenti, questo ragionamento assolutamente retorico a cui i giornali hanno dato subito molto, molto rilievo, come vi ho detto, prendendo il caso del titolo di Repubblica, e fatto dal presidente della società che propone l'inceneritore di Case Passerini, che è la società Q-Termo, lo diciamo fino alla noia e fino al vomito di questa cosa, ma i nomi e le società sono importanti. Q-Termo, che è una società pubblico-privata partecipata da una parte da quello che era Quadrifoglio, oggi invece cambiato di nome Alia, e dall'altra parte il gruppo ERA come soggetto privato. Quindi il presidente Giorgio Moretti di questa azienda pubblico-privata che propone l'inceneritore denominata Q-Termo ha suscitato questo problema, questo allarme su quanto costerebbe dire no. C'è da rilevare che in realtà non esistono, per quello che sappiamo, con pareri competenti e con studi all'altezza del compito e delle difficoltà, non esistono penali. Al limite potrebbe esistere che la società proponente, nel momento in cui si torna indietro, chiede che vengano risarciti o rimborsati dei costi già sostenuti. Chiaramente questo dipende anche da come la società si era comportata e da quanto era stato, diciamo, studiato il progetto e se non era in conflitto con, insomma, con un assetto più complessivo. E non esistevano problematiche, quindi già da una parte bisognerebbe vedere fino a che punto la proposta della costruzione di un inceneritore non entra o non sarebbe entrata in conflitto con tutta un'altra serie di cose, a partire dalle questioni ambientali e la lesione possibile del diritto alla salute. Dall'altra, quindi non ci sono penali. Ma ci domandiamo, come giustamente hanno fatto le mamme non inceneritore nei loro comunicati, che sono subito usciti a seguito di questa vicenda delle penali, ci domandiamo se invece i costi non sono quelli di progettazione, che una progettazione chiaramente, come abbiamo più volte detto in questi anni, tra l'altro affidata a un archistar, perché è stata affidata a Gaia Aulenti, che ha fatto il progetto per, diciamo, per l'aspetto estetico dell'inceneritore, perché non ci si accontenta della funzionalità dell'oggetto, ma vorrebbero in qualche modo diventare anche luoghi di culto quelli dell'inceneritore, quelli luoghi e situazioni, edifici, architetture come quelle degli inceneritori, e quindi è stato affidato a Gaia Aulenti. Quindi in buona sostanza non ci sono penali, e però è stato subito suscitato questo tema. Quindi ecco, già comincia subito dopo il 2 dicembre un certo pressing mediatico che prosegue e viene, diciamo, tra virgolette, interrotto da un'altra questione molto rilevante, che è stata la presa di posizione del presidente della regione Enrico Rossi, che in questo mese ha messo in discussione il sostegno all'inceneritore. Una questione è una presa di posizione che indubbiamente ha a che vedere con, diciamo, l'aspetto proprio di appartenenza politica, tenendo conto che Enrico Rossi, dal PD renziano si sta invece spostando verso questo, nuovo soggetto, più o meno nuovo MDP. Quindi, tenendo di conto di quello che è il ruolo dell'azienda privata Gruppo ERA dietro all'inceneritore, è anche possibile che ci sia per certi aspetti una volontà di colpire il PD togliendo ad ERA la gestione di un futuro inceneritore in provincia di Firenze e quindi togliendogli anche una discreta fonte di finanziamenti. Comunque questo siamo nel campo, diciamo, delle supposizioni in qualche modo fondate, tenendo conto di quello che è oggi il rapporto tra sistema delle imprese e politica, Però insomma, non andiamo avanti, diciamo su questo, fermiamoci a quella che è stata le dichiarazioni pubbliche di Enrico Rossi, che appunto ha cominciato a mettere in discussione l'inceneritore di Casa Passerini, dicendo che c'è bisogno di rivedere il piano dei rifiuti, che la regione toscana potrebbe appunto procedere alla definizione di un nuovo piano dei rifiuti che faccia a meno di nuovi inceneritori. Queste sono state le dichiarazioni che sono cominciate appunto nei primi di dicembre e che si sono susseguite fino alla fine dell'anno. Insomma, questa è la posizione che ha preso il presidente della regione Enrico Rossi, che oggi viene, come succede, insomma, da presidente della regione si parla più spesso nei media di governatori. Visto dalla tendenza politica all'accentramento dei poteri, il presidente della regione forse gli sembra qualcosa che ha a che fare troppo con, diciamo, con la vecchia democrazia, e quindi parliamo più spesso viene parlato, vengono definiti più spesso come governatori, ecco, tornando a qualcosa che ha a che fare con la Roma imperiale. Quindi questa presa di posizione di Rossi sicuramente è stata significativa, anche perché ha preceduto di poco la sentenza del TAR. Come abbiamo già più volte detto, già la manifestazione del 2 dicembre muoveva anche dall'avvicinarsi di questa importante scadenza, cioè appunto la definitiva decisione del Consiglio di Stato su quello che era stato il ricorso che era stato fatto contro il ricorso presentato dai cittadini e che aveva bloccato l'iter autorizzativo. Quindi, diciamo, la sentenza del TAR da questo punto di vista, cioè da un punto di vista esclusivamente amministrativo, sarebbe dirimente nel dare ragione a quelle che erano state le ragioni degli abitanti o a quelle che erano la difesa e le ragioni dei proponenti l'opera. Quindi, appunto, come ho già detto, il Consiglio di Stato si pronuncia solo su aspetti amministrativi, diciamo di legalità procedurale, di correttezza formale della questione, non entra nel merito. Di quello che sono gli effetti dell'opera, se fa bene o se fa male, se è sensato o se non è sensata, se ha senso per l'economia del paese o meno, se è giusta da un punto di vista di giustizia sociale o meno, non entra in nessuno di questi aspetti se non tenere di conto di elementi di correttezza formale. Siccome fortunatamente spesso succede che i proponenti l'opera non sono solo ingiusti e scorretti, ma sono anche degli incapaci, ci sono spesso poi delle difficoltà di tipo formale. Quindi a quelle si erano attaccate a novembre dell'anno scorso il TAR e il ricorso dei cittadini, che ha tenuto bloccato quest'iter. Insomma, il 19 dicembre era fissata la sentenza del TAR, o meglio, l'inizio della discussione, che ancora non è uscito, non è di dominio pubblico, però proprio poco prima di questa sentenza sono uscite le dichiarazioni di Rossi e un altro colpettino, diciamo così, nella credibilità delle aziende proponenti, quindi di Alia e delle ex Quadrifoglio e di tutto il gruppo dirigente dell'ex Quadrifoglio, oggi Alia, compreso Livio Giannotti, è stata l'inchiesta che proprio il 19 di dicembre ha colpito Quadrifoglio. Per una questione, poi tutto sommato ci è sembrato un po' pretestuosa, non perché non sia grave, ma perché tutto sommato era, diciamo, di pubblico dominio da anni, che riguarda diciamo, la sporcizia del compost prodotto da Quadrifoglio, nel senso che nel compost prodotto da Quadrifoglio, come un po' tutti sanno, ci sono residui di plastica, pezzettini di vetro, insomma, delle cose che questo compost non è di particolare qualità. Ecco, c'è stata un'inchiesta che diciamo, ha messo nero su bianco questa inottemperanza rispetto alle promesse fatte dall'azienda Quadrifoglio, oggi Alia, rispetto al compost che essa vende, e quindi che vendendo un compost sporco avrebbe danneggiato le aziende che a loro volta hanno comprato questo compost. Insomma, è una cosa che, appunto, ripeto, gli abitanti, non c'è bisogno della magistratura, lo sanno tutti che il compost di Quadrifoglio non è particolarmente pulito, eppure, insomma, ha pochi proprio nello stesso giorno in cui cominciava la sentenza del TAR, questa inchiesta ha colpito i vertici di Quadrifoglio, che chiaramente non hanno particolarmente tremato, anche perché, ripeto, l'entità dell'inchiesta non è enorme, però insomma ci è sembrato una cosa interessante in questo senso rispetto a alcuni assetti, alcuni equilibri di potere. Quindi, come dire, tenendo conto che non c'è ad oggi alcuna certezza di quelle che sono state le dichiarazioni di Rossi, e né di una volontà dei proponenti l'opera di tornare indietro, abbiamo assistito ad uno scontro in cui Nardella ha accusato Rossi di fare solo chiacchiere, come titola La Nazione del 14 di dicembre, che esce con "Ira di Nardella, Rossi sono solo slogan". Questo è quello che diceva Nardella, che continua a sostenere la necessità dell'incenerimento come pratica e dell'inceneritore di Case Passerini. Quindi Nardella e Rossi sono entrati, insomma, in un conflitto, così, in una polemica, in una querelle mediatica, nella quale, insomma, i giornali hanno fatto la loro parte perché, ripeto, no, no, non lo ripeto, lo dico per nuovo perché non l'ho detto, il paginone del 14 dicembre della Nazione, se da una parte mette l'ira di Nardella, nell'altra pagina mette la guerra dei rifiuti, la nettezza abbandonata e gli steward ai cassonetti per bloccare chi sgarra. Ecco, quindi se da una parte ci sono le dichiarazioni di Rossi e l'ira di Nardella, sull'altra pagina immediatamente il rifiuto appare come una questione veramente complessa da gestire, quindi si mette subito nuovamente in luce questo elemento dell'irrazionalità, dell'incapacità, della maleducazione italica, che fatta di coloro che buttano, sversano, non usano bene i cassonetti, che quindi è uno degli argomenti che è sempre stato un cavallo di battaglia degli inceneritoristi e di tutti coloro che più in generale vogliono avversare la raccolta differenziata, la possibilità di un ciclo dei rifiuti a valle che sia diverso da quello proposto appunto dai proponenti, gli inceneritori, per i quali l'indifferenziata è poi tutto sommato la madre di ogni cassonetto, no? Cioè, quindi cosa meglio dell'indifferenziato? Anche se è vero che, come abbiamo più volte detto in questi anni, l'inceneritore di Case Passerini, come altri, avrebbero anche le autorizzazioni per bruciare la spazzatura differenziata, però certamente far fallire il sistema della differenziata è uno degli obiettivi e delle pratiche, dei dispositivi che sono stati utilizzati per poi accreditare l'idea dell'incenerimento come l'unica alternativa possibile al trattamento dei rifiuti. Quindi la nazione, come spesso ha fatto, si è connotata e caratterizzata proprio come un attore politico, no? Quindi da una parte Rossi si permette di dire che dell'inceneritore se ne potrebbe fare a meno, Nardella si arrabbia, la nazione lo sostiene mettendoci queste foto devastanti di gente che corre in mezzo ai rifiuti, dietro ai cassonetti, che sono poi le stesse che fanno da corredo e fanno parte di una campagna che anche le mamme non inceneritore abbiamo sostenuto un po' tutti, che è scattonetto, no? Quindi l'idea di come dire, sorvegliare a livello popolare, di attivare una sorveglianza, un monitoraggio, un'attenzione popolare nei confronti dei cassonetti che straripano, che però non è da intendere, da leggere come un atto d'accusa nei confronti della gente maleducata, che ovviamente esiste, ma non è il fuoco del discorso. Il fuoco del discorso sviluppato dai comitati e dagli abitanti è quello di sottolineare come il sistema dei cassonetti, così come è concepito, non funziona e non funzionerà e non funzionerebbe nemmeno con gli steward a sorvegliare sui cassonetti esistenti. È da rivedere, poi sono comunque temi fluidi sui quali torneremo, è inutile che adesso la sto a far lunga, se no appunto si entra troppo nel merito, ma lo abbiamo detto tante volte, la raccolta differenziata può funzionare, non è l'unica questione nel grande tema dei rifiuti, però è un aspetto importante, può funzionare, sicuramente non vogliono che funzioni, non lo vuole la nazione, non lo vuole Nardella, chissà se lo vorrà Rossi. Teniamo anche conto appunto che tra le risposte che i movimenti hanno dato, sia sulla questione, come ho citato all'inizio, delle penali agitate da Giorgio Moretti, sia delle dichiarazioni di Rossi, una delle questioni che abbiamo tirato fuori in questo passato mese di dicembre, che ha chiuso l'anno, è stata quella dei danni erariali, perché appunto, siccome non abbiamo raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'Unione Europea, siamo costretti a pagare delle penali. Quelle sì, davvero le paghiamo, più che penali sono proprio multe, sanzioni che l'Unione Europea fa per coloro che non rispettano gli obiettivi e le percentuali minime di raccolta differenziata fissate. Siccome noi, nei nostri comuni, nel nostro ATO, non le rispettiamo, visto il sistema di raccolta, dei rifiuti vigente, stiamo già pagando queste multe comminate dall'Unione Europea, che ammontano a circa 58 milioni di euro. Quindi, se Giorgio Moretti nei primi di dicembre si lamentava delle penali e quindi di quanto costerebbe abbandonare l'inceneritore di Firenze, ecco, noi diciamo quanto costa invece il non abbandonare questo sistema di raccolta dei rifiuti, perché ci sta già costando circa 58 milioni di euro, e qui non sono cifre inventate, ecco. Andiamo poi avanti, diciamo in questo mese, oltre a questa sentenza che ha colpito Quadrifoglio, altre due questioni sicuramente molto importanti sono state la questione dello stadio, e la questione che ha a che vedere con il riassetto complessivo di quella porzione di territorio che va dall'attuale via dello Smannoro fino al casello dell'autostrada Firenze Nord, che è quella che vedrebbe come centro la nuova pista e girare intorno tutta una serie di altre infrastrutture. Tra queste c'è anche la questione dello stadio, perché ovviamente dicono i proponenti, vorrebbero costruire la Cittadella Viola sull'attuale area Mercafir, che si trova appunto tra Viale Guidoni, in quella zona di Napoli, quindi trasferire la Mercafir in edifici e strutture ex novo da costruire nella zona di Castello, sui terreni della Unipol, quei famosi terreni di Ligresti, sarebbero quelli che diciamo sono a ridosso di Castello, insomma, partendo dal viale 11 Agosto. E spostare invece nell'attuale area Mercafir di Napoli, costruirci la Cittadella Viola. Quindi ci sono stati degli articoli che in stile e in coerenza con questa retorica del fare, sono stati appunto hanno affermato che esiste il via libera alla nuova Castello. Sto leggendo il titolo della Nazione e della Repubblica del 15 dicembre: via libera al nuovo Castello, passi avanti per lo stadio, approvata la VAS. Il mercato di Napoli potrà spostarsi per far posto all'impianto. Ecco, qui si dà già tutto per fatto, perché questo è titolo e sottotitoli, quindi a leggere qui è già sostanzialmente tutto fatto. Poi si scopre nei giorni successivi che invece non è fatto praticamente ancora un bel niente, che non è tutto a posto, a partire proprio dall'acquisto dei terreni, e ancora una volta i giornali si fanno attori, veri e propri attori politici, perché è la Nazione e la Repubblica che mettono subito in moto e passano la palla al magnate Eurnekian, il presidente proprietario di Corporazione America, cioè la società privata che vorrebbe realizzare il nuovo aeroporto insieme a Toscana Aeroporti. Che per velocizzare, facilitare, agevolare l'arrivo in porto dell'operazione Stadio Mercafir si propone per l'acquisto dei terreni della Unipol. Quindi Eurnekian, insomma, sicuramente per portare avanti il progetto dell'aeroporto vorrebbe, ecco, agevolare, è disposto forse anche ad anticipare dei soldi per spostare, per comprare i terreni della Unipol sui quali spostare la Mercafir, che una volta non più collocata a Napoli lascia scoperta e libera questa parte per la nuova Cittadella Viola. Questo questi sono i progetti, queste sono le cose di cui si sta parlando, cose che appunto, come ho letto, via libera al nuovo castello, però insomma in realtà ancora è molto tutto da vedere e i giochi non sono ancora fatti. I giochi non sono ancora fatti, nonostante diventa parte di questo dibattito mediatico anche la moschea, pensate un po', quindi se da una parte il sindaco Falchi, perché nel comune di Sesto firma l'accordo per collocare la moschea vicino al CNR e nell'area del polo scientifico, però subito ancora una volta i nostri giornali locali mettono in mezzo la pista, non si capisce bene che perché, però insomma titolano e sottotitolano dicendo sì, va bene la moschea, ma prima la pista. Ecco quindi che torna questo pressing mediatico sugli abitanti, sulla piana, su chi legge i giornali, che vuole essere per forza abituato a ragionare in questi termini nei prossimi anni. Noi quindi invece siamo qui anche per questo, a dire i giochi non sono fatti, non sono fatti, nonostante, arrivo all'ultimo tema per riassumere questo dicembre di fuoco da un punto di vista della retorica e del pressing mediatico di cui ho parlato, che è il 28 di dicembre, in cui il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, firma e mette la sua firma dopo quella che già era stata messa di Galletti sotto il decreto di VIA, di valutazione impatto ambientale, per il nuovo aeroporto. Quindi questa vicenda della nuova via per l'aeroporto, una via che ricordiamo semplificata proprio da un decreto fatto da Galletti a luglio del 2017, quindi dell'anno appena passato, che abbiamo appena salutato, e quindi con tutta una serie di criteri diciamo ridotti, proprio per facilitare l'iter autorizzativo di un sacco di grandi e medie opere in Italia, ma quasi sicuramente cucito su misura per la questione dell'aeroporto di Firenze. Questo per dire purtroppo con quali complessi di interesse ci stiamo scontrando e battendo. Quindi nonostante il 28 di dicembre è arrivata questa firma e chiaramente si sono... in realtà direi non ci sono stati neanche troppo, non c'è stata neanche troppa retorica giornalistica, perché di retorica giornalistica in questi anni ne hanno spesa anche troppa, quindi hanno scritto anche troppe volte c'è l'ok per il nuovo aeroporto, ok per il nuovo aeroporto, firma per il nuovo aeroporto, avanti con il nuovo aeroporto, l'hanno detto talmente tante volte che probabilmente quando era davvero forse l'ultima firma di questi iter autorizzativi non avevano neanche più niente da dire. La nazione si è limitata a dire via col vento. Pensate voi che creatività i giornalisti, i giornalai della nazione, che sono riusciti a mettere insieme via e vento, recuperando il famoso titolo che ormai è di dominio pubblico. Via col vento è stato il titolo della nazione. E a commentare questa firma. In realtà, come ho detto, i giochi non sono fatti, perché sono firme, sono autorizzazioni, ma lo sono anche a valutazioni che continuano a tenere dentro di sé le numerosissime prescrizioni che lo stesso Ministero dell'Ambiente ha dato alla realizzazione del progetto. Quindi i giochi sulla piana sono tutt'altro che fatti. Hanno e avranno ancora tanti problemi anche da un punto di vista procedurale. Chiaramente, come sempre abbiamo detto, siamo qui a dire non che contano le opinioni di chi come me in questo momento sta parlando, ma conta l'opinione se si fa forza popolare. Forza popolare con tantissimi strumenti, uno di questi fuori senza ombra di dubbio è l'informazione, la controinformazione e la maturazione di altra consapevolezza. Quindi siamo qui proprio per questo, per dire che sarà possibile rovesciare la tavola, mandare all'aria i loro piani, resistere un minuto di più della loro insistenza, se sapremo farlo insieme, collettivamente, dotarci degli strumenti giusti, che sono momenti come questo di approfondimento, di discussione, di diciamo di incontro, anche se virtuale e per certi aspetti unidirezionale, perché sono io che parlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Wombat, ma speriamo che attraverso la nostra radio, che è una radio più che popolare, una radio autogestita, si possa istituire un meccanismo di circolarità delle informazioni, quindi anche per certi aspetti un ritorno, per cui siamo anche a disposizione per fare approfondimenti su quello che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici riterranno più opportuno, dare ulteriori spiegazioni, concentrarci su qualcos'altro. E niente, penso che più o meno vi ho riassunto quello che è stato il mese di dicembre, a partire, come vi ho detto all'inizio, dalla mobilitazione del 2 dicembre, i tre pacchi che gli abitanti della Piana hanno restituito a Nardella e Company, per essere sintetici, e siamo arrivati fino purtroppo alla firma del 28 di dicembre del nuovo VIA. Sicuramente ci teneva Nardella, anche in maniera forte e personale, a chiudere il mandato di quest'anno con questi elementi, quindi quantomeno con delle firme. Poi che si muova o non si muova qualcosa è tutto da vedere, però insomma sicuramente le firme ce le hanno, si prepareranno oltre che ad essere ingiusti anche ad essere illegali, e questo pone dei nuovi interrogativi e rende la cosa interessante, e forse il 2018 dovrà essere un anno di maggiore attenzione rispetto a quello che è stato il 2017, che è stato fortemente condizionato dalle loro difficoltà procedurali. Difficoltà procedurali che, come ho detto, restano, ma che si stanno attrezzando per superarle. Chiaramente le superano con arroganza e autoritarismo, e dall'altra parte come abitanti ci dobbiamo far trovare pronti, non piegare la testa e andare avanti con le lotte per salvaguardare l'ambiente e il nostro futuro. Non è solo questione di inquinamento, è anche questione di risorse, perché tutto quello di cui stiamo parlando, inceneritore, aeroporto, vengono realizzati con i soldi pubblici che sempre più vengono sottratti alla scuola, alla formazione, ai servizi sociali, al sostegno alle politiche sul lavoro. Chi più ne ha più ne metta, perché sono veramente tantissime le cose che ci stanno togliendo e delle quali invece si stanno appropriando capitalisti, padroni, vecchi e nuovi. Ne possiamo fare a meno, di questo ne siamo convinti, e anche Radio Wombat di questo è una dimostrazione. Ne possiamo fare a meno, possiamo fare i nostri media, possiamo fare un sacco di cose. Alla prossima, diciamo, puntata. E un salutone, un abbraccio, un pugno chiuso e buona lotta a tutti.